una piccola sosta che soprattutto a livello mentale ci farà bene, ma più panettone che altro, una finta sosta. Più panettone che altro, sì, speriamo di mangiarlo bene panettone. Beh, te lo mangi, qualche tuo collega non lo so. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Chiaro che io oggi non firmerei per il quinto posto e la squadra è ambiziosa ed è giusto che lo sia, perché ha dimostrato di avere delle belle qualità, ha dimostrato di giocarsi sicuramente alla pari con tutti. Scusa Stefano, ma il secondo lo firmeresti invece di posto? Colgo l'assist, firmerei un rinnovo di contratto, è l'unica cosa che firmerei in questo momento. La mia era una battuta sul piano B, chiaramente. Cioè, il piano B per ogni allenatore sono le sostituzioni. La differenza la fa la rosa. Abbiamo cambiato modo, abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata, ma ci sta. Ti vengono sempre ad abbracciare i tuoi giocatori? Secondo me a volte mi vogliono bene, a volte c'è una fotografia la mattina, c'è una fotografia che mi sputano in faccia. Sono un po' all'antica su questo. Io, a me piace dire pane pane, vino a vino. Bravo. E non portare nessun rancore. È molto meglio correre 5 metri in avanti che 80 metri indietro per recuperare la palla, quindi questo deve essere l'atteggiamento giusto in tutte le partite, non solo nelle partite importanti. Andrea, cosa c'era in quell'abbraccio con Dybala? Va anche al merito a tutta la squadra che l'ha sempre supportato in queste partite, anche se non riusciva a trovare la sua gioia personale. Oggi l'ha fatto e ha fatto anche un'ottima prestazione. È stata una grande domenica di abbracci di piani B, carissimi, quella che abbiamo vissuto nel campionato di Serie A e non solo. 14:06, 800-24-0024, numero verde per intervenire da qui alle 15, potete già prenotarvi. 349-238-6666, sms e whatsapp anche vocali. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Grande domenica di abbracci e piani B, anche se si fa quasi fatica a stare dietro al pallone di questi tempi, perché non abbiamo fatto neanche in tempo a metabolizzare la Serie A più aperta degli ultimi 15 anni, che questa mattina ci sono stati i sorteggi di Champions ed Europa League che ci proiettano alla prossima primavera. Poi da domani è già ancora campionato, perché scatta la 12ª giornata, ma avremo tempo per parlarne. Allora, prima del radio tweet, carissimo Pierre, ti do l'esito dei sorteggi. La Lazio ha pescato il Bayern Monaco, l'Atalanta il Real Madrid, la Juventus il Porto. Questo per quanto riguarda la Champions League. In Europa League la Roma con il Braga, il Milan con la Stella Rossa Belgrado e il Napoli con il Granada. Sì. Che ne pensi? Pare, penso che è stato sicuramente che l'impresa del Camp Nou è stata un'impresa che ha avuto un suo esito. Nel senso che era abbastanza prevedibile, abbastanza logico vedendo poi le prime, le seconde, dei vari gironi, ma insomma sicuramente quello che è successo in quella serata ha cambiato è stato un investimento fruttuoso. Assolutamente, la Juve si trovava ad avere un sorteggio abbastanza morbido, è arrivata una squadra ovviamente da rispettare ma non proibitiva, e soprattutto insomma per le altre italiane si sapeva che sarebbe stata complicata. Credo che ad oggi, per quello che si può dire oggi, sia stata maggiormente fortunata, si fa per dire, l'Atalanta rispetto alla Lazio, nel senso che in questo momento il Real Madrid mi sembra più giocabile del Bayern, però sappiamo che da qui a febbraio le cose possono cambiare, possono radicalmente cambiare, quindi insomma. Sull'Atalanta bello, no? Faremo un approfondimento nell'ultima parte della trasmissione, perché si è rotto tutto oggi, poi sì, ve lo leggeremo. Insomma, c'è il messaggio del Papu Gomez che di fatto scarica società, ambiente, Gasperini, tiene soltanto i tifosi, ma quando un giocatore dice quando potrò dire la mia, saprete la verità e sarà il giorno che me ne andrò, è chiaro insomma che al di là delle cortine fumogene, delle veline e di tutto quello a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, si è rotto qualcosa di importante a Bergamo. 800 24 00 24, fammi salutare Serse Cosmi. Ciao Serse. Salve, ciao. buongiorno a tutti. Ciao. Che impressione ti lascia il sorteggio così come l'abbiamo delineato? Ma è chiaro che queste situazioni si dice che a questo punto tutte le avversarie sono difficili. Io invece non la penso così, ma come me non la pensano neanche i dirigenti delle squadre, quindi ci sono ovviamente le partite sono tutte complicate, ci mancherebbe sia in Champions che in Europa League, però è normale che un Porto, ovviamente in virtù un pochino del piazzamento nel girone rispetto a un Bayern Monaco e a un Real Madrid, credo che sia un pochino diverso, insomma, quindi sono due partite, come ha detto Pierluigi, da vedere nell'ottica febbraio, cioè i mesi che ancora rimangono, perché oggi siamo a dicembre e da qui a febbraio, nel bene o nel male, quindi per gli avversari, per le nostre squadre, certe dinamiche potrebbero cambiare, insomma, quindi nel momento magari si potrà trarre da, diciamo così, con concretezza se sia stato un sorteggio assolutamente negativo oppure che può dare spazio per esempio a Lazio e Atalanta per poter pensare in maniera diversa rispetto a quello che si può pensare oggi. Sì, soprattutto la Lazio in questo momento sorteggio che sembra chiuso, poi febbraio sarà un altro calcio. Se sei d'accordo, Pier, classifichiamo come frasi di circostanza anche quelle di Nedved, che ha detto Porto per carità, però ricordiamoci l'anno scorso il Lione era un'altra Juventus ed era un'altra storia, no? Quella di un anno fa. Beh sì, però insomma non è che questa Juventus ad oggi abbia dato delle prove, cioè le ha date in Champions, le ha date paradossalmente molto più in Champions che in campionato, le sta cominciando a dare in campionato. Io credo che poi ne parleremo, che ci sia una crescita, che ci sia un segnale, la Juve sta cominciando a mettere una serie di prestazioni comunque solide, miglioramento una dopo l'altra, quindi però è ancora presto, non è ancora una Juve schiaccia sassi come si diceva una volta, quindi no, secondo me certo sono frasi diplomatiche, perché ci manca pure che dici passiamo il turno e poi non lo passi e ti prendo in giro per tutta la vita, quindi è ovvio che devi dire, e poi è anche vero, insomma, Porto comunque una squadra che va assolutamente rispettata, di buona tradizione internazionale, 180 minuti non te la porti certamente da casa, però se potevi sceglierne uno pescavi quello. Sì, insomma, no. Diciamo che non è andata male. Non è andata male. A proposito della Juventus, così allarghiamo anche il ragionamento insieme a Serse Cosmi su quello che abbiamo visto ieri, 800-24-00-24, il numero verde, mi sembra, poi parliamo del Milan e tutte le altre, che quella continuità tante volte evocate in questa settimana per la Juventus, almeno a livello dei risultati, si sia vista. La Juventus ha vinto 8 delle ultime 10 partite, compresa la Champions League, le altre due le ha pareggiate. Almeno lì, diciamo, a livello di risultati, Pirlo non ha più un problema, no, Serse? Sì, volevo fare una piccola premessa, magari sbaglio io, ma credo che in Champions la Juve abbia vinto una Champions in più del Porto, insomma, non è che ci sia poi questo abisso, insomma, se si tiene riferimento a quello che è non l'attualità, ma diciamo il livello internazionale, insomma, delle due squadre, delle due società. Sì, la Juve ha trovato una continuità di risultati, fondamentale è stata la partita di Barcellona, dove la Juve si è espressa, credo, anche con la giusta personalità, forse anche con la giusta formazione, e quindi di conseguenza ha ottenuto un risultato, ma soprattutto una prestazione convincente di fronte, questo lo dico io, ovviamente non lo dirà mai nessuno, la Juve di fronte al Barcellona più imbarazzante degli ultimi decenni, perché veramente quello che è riuscito a non fare il Barcellona, al cospetto invece di una squadra, la Juve, che è riuscita a fare tutto bene come era giusto che facesse, è difficilmente riscontrabile nella storia del Barcellona. Quindi anche se poi, Serse, le partite le devi vincere comunque, e il parallelismo è ad esempio con il Real, che ha fatto 6 punti su 6 con l'Inter, non è certamente il Real più splendente degli ultimi 10 anni. Ovvio, no, ma io non era un... ho fatto una premessa, io ho fatto esattamente quello che doveva fare, quindi ha interpretato benissimo la partita, però non mi si venga a dire che il Barcellona quel giorno era un avversario in linea un pochino con quello che è il Barcellona, insomma, quindi questa, vabbè, è una mia convinzione, ma lo sa la Juve, non lo dirà mai, ma siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo, cioè, diciamo che la Juve ha fatto secondo me un'ottima partita e ha saputo cogliere un'occasione che è stata quella di affrontare un Barcellona oggettivamente fragile, cioè io credo che questo sia indiscutibile, cioè io non vedo neanche un motivo di discussione su questa roba qua. Ho fatto un tweet dopo la partita e si sono scatenati gli uni contro gli altri, gli juventini e gli anti-juventini. È chiaro che è un Barcellona, però l'avversario è quello, cioè non è che te lo scegli, non è il Barcellona migliore degli ultimi anni. Detto questo, è una squadra che perderà, no, ma sono d'accordissimo, senza, appunto. Si fa una disamina oggettiva, oppure vabbè, si entra nel campo delle successioni e allora potremmo dire tutto il contrario, potremmo dire anche che l'Inter ci ha avuto, per esempio, non giocando una grande partita con lo Shakhtar, delle occasioni clamorose, ma, cioè delle situazioni veramente negative e, aggiungo io, magari anche sfortunate, però poi questa ovviamente è l'oggettività della cosa, poi altrettanto oggettivi bisogna dire che l'Inter ha compromesso tutto magari con un girone non in linea con quelli che potevano essere i suoi valori rispetto agli avversari, quindi sai, cioè io mi attengo un pochino a quello che vedo, anche in campionato la Juve ha ottenuto dei risultati, tranne credo un paio di pareggi insomma in queste ultime partite, e però sono d'accordissimo con te, sta crescendo, perché è ovvio che sta crescendo, anche perché tornare indietro da come è iniziato era praticamente impossibile, però ancora non mi dà l'idea di essere una squadra... Di essere compiuta, di essere un'opera compiuta. Ma questo ovviamente, ripeto, chi conosce il calcio lo considera una situazione logica, naturale, perché quando arriva un allenatore, e quindi di conseguenza nuovo per il calcio, non nuovo per la Juventus, e di conseguenza deve per la prima volta nella sua vita parlare a un gruppo di giocatori, non allenarli, parlarli, senza fare amichevoli, importanti, in un precampionato, è inevitabile che va incontro a delle difficoltà, a un periodo di rodaggio. Per cui Pirlo, secondo me, se quest'anno riesce a riportare qualcosa, veramente va annoverato tra i fenomeni, perché per quello, rispetto a quello un pochino che era, diciamo, il suo inizio, la sua esperienza e i mezzi che ha potuto avere a disposizione, ottenere subito dei risultati sarebbe una cosa veramente straordinaria. Intanto ieri Conte ha ritrovato per strada il piano B che aveva perso contro lo Shakhtar in tempo per non incasinarsi anche a Cagliari. Io non so se sia un piano B, Serse, Pierre, abbiamo già in parte affrontato questo tema ieri, che poi possa essere strutturale, o se l'Inter oramai sia disegnata per giocare con il piano A. Ma guarda, io ti dico una cosa, cioè lo dico con sincerità perché conosco Conte, mi permetto di dirlo, non da amico, però insomma ci siamo conosciuti, per cui non dico niente. Io credo che in questo momento, al di là dei risultati, che poi sono quelli che danno un'idea ben precisa del momento, di quelle che sono le situazioni, io credo che il problema di Conte nella maniera con cui non sono le partite, sono i post partita dove ripeto, lui, questa ripeto è una mia sensazione, ma non è un'accusa all'allenatore, ma lui cade in maniera proprio scientifica in quelle che sono non le preoccupazioni, in quello che chi gli porge le domande può sentirsi dire, e questo è un aspetto dove lui, secondo me, che non è stupido, ma è una persona comunque intelligente, deve migliorare, ve lo dice uno che di calzate ne ha fatte parecchie nel post partita, insomma, quindi so che tipo di problemi poi che si possono fare danni. Mi hanno creato. Lui, cioè, esattamente, io ho la percezione che lui, prima so già le risposte che gli altri che gli propongono le domande vogliono, e lì voi sapete, fate questo mestiere, sapete. È colpa dei giornalisti, Pier. Non è la colpa, no, il giornalista fa giornalista. Non bisogna, tra virgolette, caderci con tutti i piedi, perché poi non si parla più di calcio. E quindi anche il piano B, che era una domanda secondo me pertinente, quella che ha fatto Capello, cioè lui si riferiva soprattutto a un concetto che aveva espresso Conte. Conte aveva detto che gli avversari giocavano quando affrontavano l'Inter in maniera diversa. E ovviamente chi ha fatto questo mestiere dice vabbè, prepariamoci a qualcosa di diverso, cioè, perché se no non è che si possono fare le partite secondo quelli che sono i desideri degli avversari, appunto per quello. E lui oggi credo che ha capito e è ritornato su quell'argomento ieri in maniera, non almeno per quello che mi riguarda, non convincente, perché non sono le sue sostituzioni piano B, ma sono una scelta di uomini prima e durante la partita, che poi puoi cambiare anche il sistema di gioco. Sì, intanto si è portato a casa un 3-1 bello pesante, Pier, io non so se pesi più secondo te il 3-1 dell'Inter o quello della Juve in questo parallelismo. Ma io penso, l'ho detto l'altro giorno, quindi penso che l'Inter sia paradossalmente dopo l'eliminazione delle coppe ancora non favorita, perché favorita presupporrebbe che è davanti a tutte le altre, ma diciamo fra le prime due tre, ecco, è una delle due tre squadre, se non è che hanno più possibilità di vincere il campionato, e questa uscita dalle coppe dal punto di vista fisico potrebbe rappresentare un vantaggio. Questo secondo me è abbastanza oggettivo. Detto questo, io credo che sì, che il tema dell'Inter sia esattamente questo, ma lo è dall'inizio della stagione, non lo è stato soltanto in Inter-Shakhtar, partita nella quale l'Inter è stata anche sfortunata, poteva sicuramente portarla a casa, è il fatto che in tante situazioni, è uscito sempre quel Lazio-Inter, perché ho fatto proprio la domanda ad Antonio Conte dopo la partita, perché l'Inter a un certo punto era 11 contro 10, poteva portare a casa, poteva cambiare, non ha cambiato per delle cose che Conte ci ha raccontato nel post partita, perché evidentemente lui crede di più nella continuità e non vuole confondere i giocatori troppo. Io credo che in assoluto però una squadra con una rosa profonda, anche se magari Conte non è così convinto che sia troppo profonda, però allora se non ce l'ha profonda lui, chi ce l'ha la rosa profonda? Sinceramente, con un allenatore bravo, perché Antonio Conte è bravo, è abbastanza ovvio, abbastanza normale che ci si attenda delle alternative, delle variabili, che ci si attendano delle mosse, sì, da parte dei piani tattici, cioè, differenti rispetto agli allenatori, stanno lì a fare quello, no? A fare quello. Poi può essere una scelta, secondo me, anche giusta, soprattutto in una stagione così intensa, il fatto di non voler travolgere troppo, di voler puntare su una continuità, perché non c'è voglia di confondere troppo le idee ai giocatori, perché è un anno in cui ci si allena pochissimo, ci si allena giocando, cioè questi sono tutti ragionamenti, anzi voglio sentire Terzi che ne pensa, però che in certe circostanze, in certe partite l'Inter sia stata molto prevedibile, sia stata Lukaku dipendente, palla avanti su Lukaku, sì, sponda, l'idea Lukaku di avere soltanto un piano partita, che è quello che poi è stato diciamo rifacciato a Conte, Serse. Ma guarda, innanzitutto io credo che il nostro colloquio in questo momento dimostra una cosa. Per Conte noi stiamo parlando di Inter e Juventus, ma tralasciamo il Milan che prima... Ma adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Tralasciamo la Roma che gioca un grande calcio, una Lazio che ha fatto una qualificazione in Champions incredibile, il Napoli che gioca un buon calcio e l'Atalanta che sono arrivati agli ottavi e hanno ottenuto comunque dei risultati. Questo è una risposta un pochino... Non per Conte, ovviamente dall'Inter ci si aspetta di più, su quello credo che lo sappia anche Conte. Non dimentichiamoci però che non tanti anni fa, però pochi mesi fa, è l'unica squadra italiana che è arrivata nella finale, insomma, voglio dire, quindi comunque è chiaro che bisogna vincere le finali, però poi alla fine ci è arrivata e qualcosa di buono ha fatto, è arrivata seconda in campionato. Non è una squadra che ha deluso completamente. Sul fatto della preparazione della partita, io credo che un allenatore non può, deve necessariamente impostare una partita, perché se un allenatore imposta, diciamo, un incontro, una partita, tenendo in considerazione cinque cose, poi va a finire che dentro il suo cervello si crea una confusione. È chiaro che poi quello che ho sempre detto io e che non è stato mai interpretato, io ho detto che un allenatore, come un calciatore, ma come per altri mestieri, ha una cosa che si chiama talento. Allora, gli allenatori non viene mai affiancata questa parola, viene affiancata al calciatore, viene affiancata al pittore. Il talento degli allenatori è la lettura in corso? Ecco, io dico il talento è anche la lettura, uno ha un talento in quello, e invece si parla sempre di allenatori bravi prima o dopo, oppure nella gestione, diciamo, della squadra, però difficilmente, invece in alcuni momenti ci sono degli allenatori, a mio giudizio, talentuosi, che ovviamente non si vive solo di talento per quello che riguarda il nostro mestiere, che riescono a, a svoltare a cambiare il senso di una partita e di una stagione. Guarda, mi viene in mente, poi adesso però passiamo sul Milan, altrimenti finisce che ci dimentichiamo la capolista. Mi viene in mente Allegri, no? E il suo lavoro per cambiare le stagioni, le allegrate, no? A gennaio, vi ricordate? Insomma, ne abbiamo parlato per tanti anni. Milan, certo, di quel Juve Lazio. Milan, Serse, Pier, vedete qualche traccia di fatica nel Milan? O ieri è stata soltanto sfida? Proprio no. Credo che sì, proprio no, nel senso che comunque io vedo una crescita dell'Inter, vedo una crescita della Juve e vedo una grande continuità del Napoli. Quindi il Milan non lo considero il favorito per lo scudetto come non lo consideravo. Oggi però Condò su Repubblica scrive: guardate che l'assenza di Ibra, al di là dei numeri, comincia a farsi sentire, c'è un vuoto in mezzo all'area e quindi c'è sottointeso tra le righe, Serse, un limite nella rosa. È chiaro, non è che ci volesse... È come se ci fosse l'Inter senza Lukaku o la Juve senza Cristiano Ronaldo. In questo momento il Milan sta giocando senza il suo Lukaku e senza il suo Cristiano Ronaldo. E diciamo quindi... che le altre due hanno sofferto molto di più l'assenza di questi protagonisti a differenza del Milan. Poi è ovvio, questo Ibrahimovic è determinante, insomma. Quindi il Milan ieri ha fatto una cosa, non lo so come è stata letta la partita da voi, ha fatto una cosa straordinaria, perché quando tu giochi una partita vai sotto alla prima occasione degli avversari e poi vai sul 2-0 e contemporaneamente in quel momento in sequenza prendi 4 pali e nonostante tutto riesci a pareggiare e ti viene l'idea che sia la serata sbagliata e invece e viene a pareggiare, cioè quel pareggio. Ovviamente il problema, come ha detto Pioli, sono gli infortunati, perché Bennacer secondo me è un giocatore fondamentale, non dico come Ibrahimovic, però sicuramente in quello scacchiere è un giocatore fondamentale. Nel momento in cui poi ti vengono a mancare anche dei giocatori, riesci, e Kier era, non c'era, Ibrahimovic non c'era, alcuni l'hanno persi durante la partita, e vuol dire che secondo me Kier ha fatto un grandissimo risultato. È una squadra che non molla, perché ha delle individualità, oltre a un gioco collettivo, che dimostrano di essere decisivi. E poi, chiudo, c'è una squadra che va in gol con tanti giocatori, le altre squadre non le vedo così. Ne ha mandato in gol 13 il Milan, manca soltanto Rebic, che anche ieri ha fatto 0 virgola, ma insomma arriverà anche il suo momento. Grazie Serse. Grazie ciao, a voi. Ciao, grazie ciao, Serse ciao, Cosmo. Ciao Serse. Ricordati la nostra telefonata quest'estate? Cioè? Sì, me la ricordo. Ditecelo però, ricordatecelo anche a noi. No, sono cose nostre. No, la verità è che l'ho chiamato per complimentarmi del suo incarico dell'Under 23 e come battuta gli ho detto: ma non è che stai andando a Torino per la prima squadra? E ma come fai a saperlo? No. E allora, sinceramente, da una battuta era venuta fuori quindi una verità. Quindi il primo a sapere che Pirlo sarebbe diventato allenatore della Juve è stato Paolo Maldini. Potevi dircelo. Probabilmente non il primo, ma uno dei primi sì. A me ha fatto molto ridere questa cosa, Pierre. Secondo me Maldini l'ha saputo prima di Sarri, così a occhio mettendo in fila le date. Secondo me Maldini ha fatto una gaffa ieri, dai, mettiamola così. Una gaffa, insomma, ha svelato forse che alla Juve si erano mossi in anticipo, insomma, mancava ancora una settimana a Juve-Lione, per intenderci. Sì, vabbè, ma insomma io credo che quella, guarda, io prima o poi Paoloni, la racconteremo tutta, la ricostruiremo tutta, perché evidentemente vai. Io Marco Foroni, che la sera di Atalanta-Inter, quindi era ancora la vigilia dell'ultima giornata di campionato, mi disse, senza sapere nulla, ma unicamente diciamo con un'intuizione, stanno lavorando per portare in prospettiva. Secondo me questo è quello che è successo, cioè la scelta di Pirlo era una scelta per far crescere uno di famiglia. Poi c'è stato quell'epilogo lì nel match contro il Lione e a un certo punto è stata fatta una scelta, la situazione è precipitata per Sarri ed è stata presa questa decisione. Ma insomma, che ci fosse l'idea, Non ci sono grandi dubbi. Vabbè, insomma, comunque insomma, poi piano piano le racconteremo tutte queste storie. Allora, Giuseppe da Vicenza, 800 24 00 24. Ciao, buongiorno, mi sentite? Sì, vai. Ecco, sì, salve. Insomma, Mr. Cosmi diplomaticamente, dall'altro, della sua professionalità, aveva racchiuso con delle parole molto tecniche, però io un po' sono molto d'accordo con lui su quanto riguarda la Juventus e penso che anche voi l'abbiate notato. Ecco, forse su una Ferrari è stato messo un pilota neopatentato. Forse questo. A me sembra però, Giuseppe, che Sersi abbia detto una cosa diversa, ma forse ho capito male io. Prego, Giuseppe. Tra le righe sembrava così. Però detto questo, tra le tre, non vi pare che l'unica squadra in questo momento che sia dipendente da un singolo giocatore sia proprio la Juventus? Poi per quanto riguarda l'Inter, è un caso che se passa dal 3-5-2 alla barriera 4 di difesa le vince con largo stacco sugli altri avversari? È un caso successo ieri, Pier, non so cosa pensi ieri, tu. Vedremo. No, io figurati. Poi la Juve dipende da Ronaldo esattamente come l'Inter da Lukaku, secondo me. Sono i due giocatori più condizionanti. Nella mia totale umiltà io dico che secondo me l'alternativa, lo diciamo da mesi qui, che è un'alternativa anche di natura tattica nell'Inter, io così, da non allenatore, da persona che vede le partite di calcio, per me l'alternativa tattica intesa come la difesa a 4, l'Inter ce la deve avere. Cioè secondo me ci può giocare pezzi di partita, posso capire che la difesa sia diciamo il modello dominante, ma insomma è chiaramente un indizio adesso così da distaccare con quella mossa fine. Aspetta Pier che non si sente, adesso proviamo a recuperare il collegamento. Intanto Carlo da Piacenza. Sì, buongiorno a tutti. Vai. Io sono tifoso interista, volevo dire, vabbè, sicuramente è stata una grande delusione l'eliminazione, però secondo me c'è anche un eccesso di critica, nel senso che negli ultimi anni c'è un percorso di crescita che è partito secondo me con Spalletti, siamo riusciti a ritornare dopo anni in Champions, Conte secondo me sta facendo un gran lavoro, poi certo dall'Inter come avete detto voi ci si aspetta sempre tanto perché è una grande società, però la squadra secondo me sta crescendo con delle battute d'arresto, però un altro aspetto che vedo è anche che da quando c'è Marotta ha preso anche dei giocatori italiani, che è una cosa che io apprezzo, secondo me a livello di squadra ci sono Bastoni, Gagliardini. Sì, ma che ci sia un processo di crescita dell'Inter, Carlo, è indiscutibile. Il tema di queste ultime settimane è che arrivare quarti in quel girone di Champions League non è una battuta d'arresto, ma almeno in questa fase della stagione ha un'altra etichetta. L'etichetta è quella del fallimento per mille ragioni. Fallimento sportivo e anche fallimento economico per quello che vale in questo momento stare dentro o fuori dalle coppe europee, stare dentro o fuori dalla Champions League. Abbiamo però tempo per approfondirne. Intanto recuperiamo per Luigi Pardo. Ci fermiamo la borsa, torniamo subito. Grande Serse, avete trovato uno che finalmente vi ha messo sotto e dice le cose per come stanno. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Come mozione d'ordine si può chiedere a Conte di avere un po' meno la faccia da crisantemo? Sinceramente è ridicola questa retorica del complotto, dell'elmetto, della battaglia, del condottiero, di chi lo vuole distruggere. Da Juventino abbiamo pescato il Porto, con questo tipo di gioco che a Pirlo, senza difesa, ne becchiamo tre dal Porto e ce ne andiamo a casa. Perché abbiamo solo l'attacco forte, ma poi centrocampo e difesa. Ma una serata storta perché è un momento che abbiamo qualche difficoltà e la nostra stonata sono gli infortuni. Non abbiamo approcciato per la prima volta bene la gara, siamo stati un po' troppo molli e dopo la partita si è fatta difficile contro un avversario che ha giocato una buona partita, molto bravo a ripartire. Questa è una squadra che ha cuore, che ha volontà e siamo riusciti a prendere una partita difficile che sarà complicata e quindi va bene così. L'ultimo ovviamente non era un WhatsApp di un amico, al 349-238-6666, ma Stefano Pioli ieri, dopo il tiro a segno del Milan con la traversa del Parma, abbiamo recuperato Pierluigi Pardo e c'è Gianmarco Tognazzi. Ciao Gian. Ciao Gimbo. Buongiorno. Come si vive una serata come quella di ieri? Come stai? No, io tutto bene, grazie. Beh, ieri sì, ho detto tutto Pioli, è vero, hanno approcciato un po' strani e dopodiché è una di quelle partite che ricordava tanto Spal Milan di quest'estate, quando andammo sotto 2-0 e poi faticammo per arrivare a pareggiare. Ieri ci si è messa anche la sfortuna, perché voglio dire, comunque 4 pali sono tanti, anche se quello di Çalhanoğlu è un gol mancato secondo me, perché è veramente a 2 metri dalla porta e può tirare meglio. Ma qual è il rapporto oggi di un tifoso del Milan con questo primo posto in classifica? È il rapporto di quello, io sono veramente molto d'accordo con tutto quello che dice Pioli. Bisogna guardare partita per partita. Se il Milan rimane concentrato su questo e non si fa distrarre da obiettivi, che tanto l'obiettivo dichiarato era quello di migliorare e tentare di andare in Champions, forse si toglie anche qualche soddisfazione inaspettata. Se inizia a guardare la classifica, gli scontri diretti, fare calcoli, il Milan deve rimanere concentrato dentro Milanello e affrontare ogni gara come se fosse una gara singola, e allora poi alla fine farà i conti sui numeri e vedrà dove è arrivato. Pier? Assolutamente d'accordo, il Milan per me rimane un outsider, ma questa non è una cosa brutta, questa è una cosa bellissima. Questo è uno degli asset che Pioli secondo me sa benissimo di avere, cioè non avere quell'ansia alla prestazione che ha ad esempio l'Inter, tanto per rimanere in tema, può essere un grande vantaggio. Il Milan è partito per migliorare, è partito con una squadra molto giovane, con questo totem che si chiama Zlatan Ibrahimovic, sta facendo delle cose straordinarie. Ieri è una partita assurda che non ti deve condizionare, poi gli errori soprattutto in fase difensiva li devi leggere, però è una partita che secondo me non ti deve condizionare tanto, ti deve dare invece voglia di spaccare il mondo fin dalla prossima gara contro il Genoa. E a me sta piacendo tanto, cioè secondo me è una storia proprio bella di questo campionato, questo Milan. Sì, adesso Genoa, Sassuolo fuori casa, poi se non sbaglio la Lazio, insomma prima di Natale sì, qualche insomma, risposta in più arriva. Comunque 11 giornate non sono tante, ma non sono neanche poche. Il Milan ha già disegnato un pezzo di questo campionato, ha già fatto in qualche modo la storia di questo campionato, ma ovviamente, ti ripeto, per me ci sono squadre più strutturate alla lunga, secondo me, nelle 38 partite, lo dico proprio perché non mi piace fare 0-0. Però è già bellissima questa cosa qui e sono d'accordo sullo spirito. E se mi chiedi se ho visto un passo indietro ieri, non ho visto un passo indietro ieri. Ho visto una partita, una di quelle partite che possono capitare, devi essere bravo quando è finita quella partita, visto che comunque sei riuscito almeno a non perderla, di avere energia positiva, di non farti intristire perché ieri secondo me il Milan non l'ha fatto male. Gianmarco, dicevi? No. Beh, insomma, ragazzi, in genere adesso non dico 4 su 4, ma 2 su 4 vanno dentro. Il fuorigioco di Castiglieco è la punta del piede, per cui va bene, capita a favore e contro, però diciamo che è abbastanza assurdo, perché è un fuorigioco che, ripeto, una volta non sarebbe stato mai calcolato. Però è chiaro che te la vedi con la sfortuna, col gol annullato, con la gara in salita, con una squadra decimata, perché non ci dimentichiamo che comunque almeno è una squadra molto giovane che si ritrova senza la difesa, tutta la difesa inizio campionato, ti si fa male Gabbia, che su cui nessuno scommetteva, invece io lo trovo un prospetto di grande affidabilità, e ti entra Kalulu che secondo me, pur essendo un terzino destro, da centrale gioca meglio che da terzino destro, e io lo terrei molto in considerazione, visto che si pensa poi di andare sempre a cercare chissà ovunque qualcosa. Ci sono molti giocatori che vengono adattati in altri ruoli, e ieri il secondo gol devo dire che non è assolutamente responsabilità di Kalulu, perché va a coprire sul primo attaccante, per cui se poi dietro non c'è qualcun altro che copre, non è che ne può coprire lui due al centro dell'area. Poi è un errore difensivo nell'occasione del gol dell'1-0 del Parma. Ultima suggestione, giustamente tutti noi parliamo del Milan di Ibrahimovic, poi guardi i numeri e ti accorgi che in questa stagione Ibrahimovic ha fatto 10 partite e il Milan 20. Esatto. Questo dimostra che la compattezza del gruppo e lo spirito di gruppo, che è quello su cui io ho sempre pensato dovesse ricostruirsi il Milan, poi intorno a una figura come Ibrahimovic in campo e fuori, è la soluzione vera, la calma, la crescita di un gruppo, la fiducia che i ragazzi stanno avendo, anche al vantaggio di non avere le critiche in alcuni casi totalmente fuori luogo e premature da parte sia dello stadio che dei social, che sui quali sorvolo perché sono indecenti, i social indecenti nei confronti dei calciatori e delle squadre, veramente è diventato insopportabile, sarebbe da cancellare la possibilità di scrivere di calcio sui social. Sì, ho visto qualcosina oggi nelle community, ad esempio, dei tifosi dell'Inter su Handanovic, che per carità non avrà più 25 anni, ma non merita il linciaggio cui viene sottoposto in questi giorni, in queste settimane sui social, dai suoi tifosi, non dagli altri. La mancanza di riconoscenza, la mancanza di memoria, si chiamano tifosi, ma bisognerebbe prendere stile dagli inglesi. Supporter, supportare la propria squadra, non tifare contro gli altri o contro se stessi, che è una cosa che per me proprio è l'antisportività per eccellenza. Grazie Gianmarco, ciao, grazie. Ciao Timbo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie e buon Milan. Traffico, poi proponiamo tre pennellate, partendo dal Papu Gomez. Ieri, secondo me, si è consumato il divorzio definitivo tra Gasperini e Gomez, poi vedremo in che modo verrà metabolizzato, celebrato. L'Atalanta sicuramente farà di tutto per evitare che attorno a questa vicenda si incarti la stagione. Oggi però il Papu ha parlato, o meglio ha scritto, e di fatto ha confermato quella che è la sensazione di ieri. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Dall'esterno sembra che tu possa avere tantissime munizioni da sparare, invece poi alla fine le munizioni non ci sono, sono in apparenza. Visto che siamo in totale sinergia con la proprietà, con i dirigenti, cercheremo di ottimizzare il tutto, ecco. Penso che le scelte forti le debba fare come sempre la società. Il ruolo del Papu, quello così, tutto campista come lo chiamavate voi a centrocampo, in alcune partite era difficile da proporre, ma non per me, per la squadra. Quindi non lo so come si supererà il tutto. Il mio procuratore è stato Torino per tanto tempo e non è stato chiamato. Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre nella situazione che siamo adesso. Metti la gente incontro di me con tutto l'affetto e tutto l'amore che io ho per la Juventus. Tre pennellate, abbiamo chiamato un pittore d'eccezione, carissimo Pierre, Luca Marchetti. Avete sbagliato numero allora. No, abbiamo fatto il numero giusto, ma ci abbiamo anche riflettuto tanto questa mattina con Claudia Schiattone. Chi possiamo chiamare per darci queste tre pennellate in 5 minuti? E abbiamo detto Luca Marchetti. Prima pennellata, Gasperini e il Papu Gomez, storia finita, questo è il mio parere, siamo al momento degli stracci che volano. Oggi Gomez su Instagram: cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi, solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete, sapete la persona che sono, vi voglio bene, il vostro capitano. Luca: la verità che c'è da sapere oggi è che Papu Gomez e l'Atalanta si saluteranno a gennaio. Poi come è andata, lì voleranno gli stracci, perché se inizierà a parlare qualcuno si viola quel segreto dello spogliatoio. Sono girate tante voci, alcune vere, alcune verificabili, altre no. Di sicuro c'è stato uno screzio, e questo screzio ha portato a una frattura non ricomponibile, perché la società evidentemente non è riuscita a ricomporre questo tipo di frattura. Si è arrivata sia la risposta di Gasperini ieri, che chiama ancora di nuovo in ballo la società, sia la controreplica, se volete, di Gomez oggi. Dove può andare Gomez lo scopriremo da oggi in poi. Già c'erano state delle sirene straniere che lui non aveva accettato in estate. È un giocatore importante, guadagna da giocatore importante, è un giocatore particolare, come ricordava Gasperini, forse con un'accezione negativa. Io ho letto una sfumatura negativa nella risposta di ieri sera da Bonan. In realtà Papu Gomez è stato tanto quanto Gasperini uno degli artefici di questa Atalanta dei miracoli, e le strade saranno saranno separate. Inevitabilmente separate, sì. Poi... sarebbe una clamorosa sorpresa se continuassero a lavorare insieme. Un grande lavoro di ricucitura e di diplomazia da parte di Percassi. Seconda pennellata a proposito di sfumature. Che sfumatura avete letto voi nelle parole di Dybala ieri? In sostanza ha detto: io amo la Juventus, vorrei restare, però va detto che il mio procuratore è stato qui per tanto tempo, non l'hanno chiamato e le cifre che circolano sono false, sono messe in giro per farmi odiare dai tifosi. Adesso l'ho un po' banalizzata, però era un po' la sintesi. Due cose ha detto Dybala, secondo me meritevoli di sottolineatura. Una, non chiedo la luna. Due, sbrigatevi a chiamarmi, nessuno mi ha chiamato. Quindi da una parte un'apertura alla società, al rinnovo del contratto, dall'altra non tiriamo troppo la corda, io voglio rimanere, non vi chiedo la luna, ma cerchiamo di fare degli incontri produttivi. Io credo che delle chiacchierate in realtà ci siano state, sicuramente non tali da poter definire un affare chiuso. La mia sensazione, non so che ne pensa Pier, è che la Juventus non abbia intenzione di privarsi di Dybala, non vorrà trattenere Dybala a tutti i costi. E anche che intorno a Dybala forse ci sia un po' di confusione, eh? Io lo dico, chi è che è caduto dei due? Pier. È caduto Pier, adesso lo recuperiamo, lo dico perché comunque l'andamento di questi mesi e di queste ultime settimane è stato un andamento a tratti un po' poco coerente, anche a livello comunicativo intorno a Dybala, che ha attraversato certamente un periodo di scarsa condizione fisica e lo si è visto anche in campo, ma di per sé non è una novità, cioè un calciatore può serenamente anche attraversare questi momenti e poi tornare ad essere un grande calciatore. Luca, non c'è dubbio, alla base c'è anche questo dualismo sopito con Cristiano Ronaldo, parlo a livello tattico, non a livello tecnico. È evidente che la Juventus giochi meglio se Cristiano Ronaldo è accompagnato da un numero 9 piuttosto che da Dybala, e quindi è stato il problema, grande problema tattico di Sarri, non è stato chiaramente risolto da Pirlo, perché le caratteristiche tecniche dei tre si possono sposare insieme, ma c'è bisogno di un grande lavoro a livello tattico che né Sarri l'anno scorso né Pirlo quest'anno sono riusciti ad accompagnare. C'era riuscito per qualche attimo Allegri, ma anche lui ha pagato questo tipo di situazione. Cristiano Ronaldo è di fatto è una prima punta che gioca la seconda punta, e quindi vicino ama più una prima punta che una seconda punta. Sì, ha bisogno di uno che si sposi perfettamente. Sì. Pier, come hai idea che finisca la questione di Dybala? Ma io credo che Dybala sia un giocatore di grande talento, ma in questo momento non è in cima alle gerarchie, per quello che diceva giustamente Luca, e anche perché Morata poi ha avuto un inizio di stagione talmente convincente, anche per caratteristiche che si adattano perfettamente a Cristiano Ronaldo, che ha ulteriormente messo in difficoltà un Dybala che di suo ha avuto invece parecchie sfighe di natura fisica. Quindi questo è lo scenario. Ora, la verità, te lo dico, è che secondo me Dybala, visto negli ultimi tempi, negli ultimi due anni, è un giocatore che può essere sicuramente molto utile alla Juve perché ha dei colpi straordinari, però non ha in questo momento, secondo me, dal punto di vista del rendimento, la forza per poter diventare un pilastro sul quale costruire il futuro della Juve. Sì, non è la pietra angolare, non lo è stato. Non ho niente contro Dybala, glielo auguro, però in questo momento secondo me lui è chiaramente un talento enorme, ma è un giocatore che appunto in questo momento tecnicamente va riserva, o comunque è un giocatore che può essere utile appunto come piano B. Sì, in tante Morata situazioni. Con la maglia se l'è presa certamente. Si è difeso dal punto di vista mediatico, saggiamente, intelligentemente, perché chiaramente vedere o sentire richieste faraoniche in questa situazione non aveva senso. Non lo aiuta. Terza pennellata, abbiamo però 30 secondi, Luca. Ieri a Cagliari è nato Conte l'ottimizzatore. Mi traduci in nomi e termini concreti il suo discorso? Ma basta guardare chi non ha giocato. E credo che quelli siano quelli che Conte volentieri sacrificherebbe per razionalizzare la rosa. Nainggolan, Vecino, Nainggolan, Pinamonti, magari Eriksen. Ma Pinamonti secondo me ha una ragione di esistere da un punto di vista numerico perché quattro punte certo. L'Inter le deve avere, perché non si sa mai che succede. È vero che ormai non c'è l'Europa purtroppo per l'Inter, quindi però quattro punte l'Inter le deve avere. Ti direi anche Perisic tra questi nomi qua, poi il mercato in uscita lo fanno le richieste in realtà, bisogna anche capire se l'Inter su questo tipo di giocatori qui intende soltanto aiutare Conte nella gestione della rosa e quindi, tra virgolette, liberarsene, oppure c'è anche un ragionamento economico. Grazie Luca. Ciao, grazie Luca Marchetti, ciao anche a te Pier, l'appuntamento è domani con tutti i convocati dopo il GR delle 14, io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Pietro Lacorte in regia, ci sentiamo domani, ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!